America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. With regard to Russia and the separatists it supports in Ukraine, it's clear that they violated just about every commitment they made in the Minsk agreement. Instead of withdrawing from Eastern Ukraine, Russian forces continue to operate there. Barack Obama, il suo messaggio ai russi dopo l'orrendo assassinio di Nemtsov, è stato molto chiaro, lo ha difeso, lo ha elogiato. Vi parlo di questo episodio. Ieri c'è stata questa straordinaria dimostrazione a Mosca, una dimostrazione per la democrazia contro quello che sta capitando al Cremlino, perché insomma, per l'America da questa tragedia, da questo assassinio per strada, il più grave assassinio politico nell'era di Putin, ovviamente non sappiamo quali siano le origini di questo assassinio, ma chiaramente un assassinio che ha preso corpo in un'atmosfera malsana. Ecco, gli Stati Uniti da tempo cercano di capire se è possibile immaginare un cambiamento in questa posizione monolitica che si registra a Mosca. Ecco, le dimostrazioni per strada di ieri hanno convinto qualcuno con cui ho parlato a Washington che chissà, forse uno spiraglio per riportare un dibattito tra virgolette sano, che consenta di evitare poi quello che è successo in Ucraina, che consenta di evitare i sospetti che ci sono fra l'Europa e la Russia, fra l'America, l'Europa e la Russia, che consenta a Putin, al Cremlino, diciamo, e alla Casa Bianca di lavorare insieme per alcune delle crisi più gravi con cui ci confrontiamo, per esempio contro il Califfato, per esempio contro l'ISIS, ecco che possa esserci questa possibilità. Il fatto di aver visto questa gente per strada a Washington è stato, come dire, rincuorante. Ma a Washington si parla soprattutto di un altro evento in arrivo domani, e cioè questo atteso discorso di Benjamin Netanyahu al Parlamento riunito in seduta plenaria. Ve ne ho parlato in passato, è un evento che ha creato molta polemica, polarizzazione negli Stati Uniti. Il presidente Barack Obama ha attaccato direttamente Netanyahu per aver accettato l'invito del presidente della Camera Boehner a venire a parlare in Congresso, ha detto che non incontrerà Netanyahu in occasione di questa visita perché ci sono elezioni prossime in Israele e dunque la Casa Bianca, ha detto Obama, non si mette in mezzo a questioni interne di un paese, soprattutto quando ci sono delle elezioni imminenti. Ma il presidente è preoccupato per quello che dirà Netanyahu sul negoziato condotto da Washington con le altre potenze per cercare un accordo sulla denuclearizzazione in Iran. Ecco, questo è il quadro in attesa del discorso di domani. Ne ho parlato con Mike Rogers, che fino a qualche settimana fa era presidente della commissione intelligence alla Camera, dunque sarebbe stato in Parlamento, e un repubblicano. E dunque, visto che Netanyahu è già arrivato ieri a Washington, vi ripropongo la mia chiacchierata con lui su queste tematiche. Ecco, presidente Rogers, c'è un negoziato in corso, il Congresso vara nuove sanzioni contro l'Iran, il presidente Obama è contrario, dice che questo può andare contro l'esito del negoziato, ma lei cosa pensa di questo negoziato? È preoccupato? Sì, lo sono. Finora l'Iran ha avuto la meglio. Tutto è cominciato con l'idea che l'Iran non avesse la capacità di arricchire l'uranio. Non dimentichiamo che ci sono altri paesi in Medio Oriente che hanno programmi nucleari civili, ma ottengono l'uranio arricchito dall'estero e poi, una volta usato, lo restituiscono a chi l'ha fornito. È un ottimo metodo per controllare gli elementi più pericolosi del programma nucleare. L'Iran si è già portato in avanti, ora stanno parlando di quale livello di arricchimento possono fare in modo autonomo e di quante centrifughe potranno tenere per arricchire l'uranio. E questo è pericoloso e destabilizzante. L'Arabia Saudita, un paese sunnita, non consentirà che un paese sciita come l'Iran abbia del potenziale nucleare che loro non hanno. Questo farà esplodere una corsa al nucleare in Medio Oriente che ci toglierà il sonno. Ecco, veniamo alla questione più spinosa. Domani Netanyahu parlerà in Congresso. Qual è la sua posizione su questo tema? È un tema difficile e comprendo le ragioni di entrambe le parti, ma credo che Netanyahu debba avere una piattaforma per spiegare quali saranno le conseguenze per il nostro più importante alleato nella regione, cioè Israele. Gli americani debbono ascoltare quello che non ascoltano dalla Casa Bianca o dagli altri seduti al tavolo, e cioè quali saranno le conseguenze. E non dovremmo mai avere paura in America di ascoltare qualcuno che esprima ragioni diverse. of having the opportunity somebody express a difference of opinion. Questi gravi problemi fra Israele e Stati Uniti sono soltanto uno, come dire, dei fronti internazionali con cui si confronta l'amministrazione a Washington, l'amministrazione Obama. Crede che l'amministrazione sia stata troppo morbida? Teme che ci saranno subito sfide per il prossimo presidente? Credo di sì, ma credo che ci sia uno strisciante senso di isolazionismo in entrambi i partiti americani. Si pensa che se ci tiriamo fuori dal mondo, allora tutto andrà a posto. Ma stiamo scoprendo che questo non è vero. Credo che l'impegno americano nel mondo sia importante. Non vogliamo togliere niente a nessuno. Vogliamo vendere. Vogliamo la diplomazia del commercio. Quello è un messaggio forte. E se ti ritiri dal mondo, ci saranno dei soggetti pericolosi pronti a prendere il tuo posto. Questi altri soggetti non agiscono in modo disinteressato per consentire alle economie di crescere. I russi, ad esempio, stanno cercando di affermare la loro presenza sullo scacchiere globale in modo preoccupante. La Cina sta cercando di affermarsi allo stesso modo, intimidendo le flotte nel mare cinese meridionale, acque dove l'America è presente da 230 anni e dove c'è il 40% del commercio mondiale. La Corea del Nord vuole riaccendere i suoi reattori nucleari. In Afghanistan abbiamo chiesto alle donne di votare, le abbiamo incoraggiate, ma ora ce ne stiamo andando e ho una grande paura che ci sarà destabilizzazione e che queste donne saranno perseguitate. Queste sono le conseguenze del ritiro americano sulle sue sponde. Ed è un pericolo per l'America, per il mondo e per la prosperità economica che tutti vogliamo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, lei, da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, ma resta sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, avrete seguito anche voi quello che è successo la settimana scorsa, questa notizia che è andata virale su The Dress, su questo vestito, è blu, è nero, è bianco e oro. Beh, è stata una domanda che, come dire, ha paralizzato internet, decine di milioni, si parla di quasi 50 milioni di interventi. Le vendite di questo vestito sono aumentate del 374%, personaggi famosi da Kanye West, Taylor Swift sono intervenuti nel dibattito per capire di che colore era questo vestito. Allora, restando in tema di Ben Montench, vi propongo Blonde Girl, Blue Dress. Green eyes on the blue day, black birds in the field of white. Blonde girl in the blue dress, and she's walking away. Have you ever come so close? Have you ever just touched down? Have you ever come so close that you could almost. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.